finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere E perciò ci siamo, eccoci qua, vediamo anche se va in onda la voce o seppure abbiamo fatto qualche errore al solito. La voce arriva con il consueto ritardo anche in diretta. E come di consueto noi strilliamo come ossessi, pazzi invasati. Vabbè, insomma, la radio si fa ma non ci si ascolta, perché altrimenti si smette subito, e invece noi non ci ascoltiamo, per cui come ogni mercoledì, malgrado le fide pandemie, malgrado che fino a poco fa ci avevamo gli sbirri fuori del giardino di casa, fuori delle mura di casa, che stavano lì ad aspettarti che mettevi il naso fuori per dirti torna dentro, torna a casa, che c'è il nemico invisibile, quarantena, coprifuoco, bla bla bla. Noi blateriamo infatti da Radio Onda Rossa, anzi da remoto, dalla postazione remotizzata di Radio Onda Rossa, come facciamo ormai da tante settimane, non ricordiamo nemmeno da quanto tempo. Quello che vi chiediamo è che noi facciamo queste cose da scemi, tipo trasmettere da remoto eccetera eccetera eccetera, ma non potremmo farlo, non le cose da scemi, come questa che state ascoltando, ma le cose interessanti, l'informazione che la radio dà, la controinformazione, il dibattito che sviluppa. È veramente piacevole ascoltare la radio in questi giorni, in queste mattine, in questi pomeriggi. Tante trasmissioni belle, interessanti, ma tutto questo, come sapete, succede e c'è soltanto perché ci sono persone, compagni e compagni, ascoltatori e ascoltatrici, che da tanti anni sostengono la radio anche in maniera economica. Fino al 24 di maggio, cioè la prossima settimana, poco più poco meno, ci sta il crowdfunding per Radio Onda Rossa, cioè radio abbonamento, cioè la campagna 30 per 1000, 30 euro per 1000 di voi, che permettono a questo importante mezzo di comunicazione di poter esserci, comunicazione come lo chiamiamo una volta, comunicazione, di poter esserci, di poter trasmettere, di continuare a fare il suo lavoro. Quindi 30 euro in un anno sono poco più di un caffè al mese, insomma un paio di caffè al mese, dai, si può fare per avere Radio Onda Rossa con voi. Questo permette di pagare le spese vive, cioè le spese tecniche, bollette, eccetera, eccetera, eccetera, tariffe, tasse, condomini, che sono le uniche spese che la radio sostiene, in quanto nessun corrispondente, nessun redattore, nessuno e nessuna recepisce alcuna forma di retribuzione ormai da tanti anni, praticamente da sempre, a parte rare eccezioni. E quindi per questo con 30.000 euro facciamo campare una radio che comunque ha una produzione del genere per un anno. Quindi www.onderso.info, andate sul sito, cliccate in alto, c'è il banner della campagna 30 per 1000, saprete tutto, anzi, oltre che sapere, mettete pure del vostro.

Casey when she moaned. Heard that Casey when she moaned. Thought I heard that Casey when she moaned. Thought I heard that Casey when she moaned. Thought I heard that Casey when she moaned. She blows like my baby's own bone. She blows like my baby's own bone. miglia, 65 ore di viaggio in treno per produrre queste 13 tracce di cui abbiamo ascoltato Casey Moan, Billy Bragg e Joe Henry. Li ascoltiamo sovente da queste parti, anche se diciamo concentriamo la nostra attenzione durante queste settimane nella preparazione dei Trip Virus, Invenzione del Fantasma, di cui così abbiamo un po' preso le orme. E proprio perché il fantasma ha dato così là a questa storia dei Trip Virus, non possiamo che mandare a Ghost del disco di Greg Dulli, voce, la ricorderete, degli Afghan Twigs, che in un primo momento non mi aveva convinto, invece è uno di quei dischetti che ha da dire. Pian piano l'ascolteremo tutto, per ora da capo è Ghost, Greg Dulli, Aranda Rossa, 25 o'clock. L'emergenza. Allarmismi e panico. Allarmismi e panico. Agli esperti. Allarmismi e panico. Agli esperti. Una task force. Agli esperti. Una task force. Allarmismi e panico. Agli esperti. Una task force. Promiscuità di uomini e animali. Agli esperti. Allarmismi e panico. Fettivologo. Allarmismi e panico. Passano tante informazioni attraverso il televisore, i giornali. Televisore, i giornali. Agli esperti. Allarmismi e panico. Passano tante informazioni. Televisore, i giornali. Agli esperti. Delle informazioni attendibili. Allarmismi e panico. Tutte le rassicurazioni. Agli esperti. Agli esperti. Tutte le rassicurazioni. Allarmismi e panico. Televisore, i giornali. Tutte le rassicurazioni. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare allarmismi, psicosi. Tosse, riniti e può dare polmoniti. Tutte le rassicurazioni. Televisore, i giornali. Tosse, riniti e può dare polmoniti. Agli esperti. Tutte le rassicurazioni. Televisore, i giornali. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare luoghi affollati. Agli esperti. Delle misure per contenere l'infezione. Evitare luoghi affollati. Evitare allarmismi, psicosi. Televisore, i giornali. Delle informazioni attendibili. Riniti e può dare polmoniti. Infezione. Unità di crisi. Un'unità di crisi. Evitare i luoghi affollati. Un'unità di crisi. Per mettersi delle mascherine. Infezione. Allarmismi e panico. Allarmismi e panico. Infezione. Mascherine. Mascherine. Mascherine. Mascherine. It's tough out there. It's a goddamn jungle. Mascherine. Infezione. Infezione. Sotheby's, job growth gets college graduates, safe friends at Applebee's, happily conceived, but never to that deep, plant seeds of revolution, every time we speak for every one MC, there's a million white boys. Crosses, best we cut our losses, seek refuge in tools from past decades, display same rage, magnified by malignant movements of the day you know. Go for throat when you approach. Fuck hope, living in the braid noose rope. Folk scholars in attempt to fulfill prophecies. Those sorries won't amend for ancestral atrocities. Watching me, won't relieve those deep-rooted fears. Out the corner of my eye, seen your image come clear. Revered traits, betrayed by a frail chest plate. A timid tongue speaks words force-fed from wooden spoon. Demented dialogue consumes. Took five steps back to retune, knowing full well what darker days loom. Learn to read horizon in hopes to watch our final sunrise and sunsets on mankind. Entertained by vain aspect of my kind, poorly educated in corrupt paradigm. Point the situation since we all just done deaf and blind. Cause we all holy more by the village's strength. Step on our own, we're all in it. It's our man, grab it, it's the back when we be stuck with hand in hand. Trust the motherfuckers, I just see. Cause we all holy more by the village's strength. Step on our own, we're all in it. It's my man, remember it's the back when we was done with hand in hand. Trust me, motherfuckers, I just be sore. Scripts, defects, external speech drop octaves as they drop knots on truth. We tempt to sell them, fill the ring with venom. First thoughts to end them, second seek survival at base levels. Targets, I got several apprehensive actions. Took minor refractions, turned them into felonies. Next auction, the melanin set the start of Sotheby's. Job growth gets college graduates, safe friends at Applebee's. Happily concede, but never to that deep. Plant seeds of revolution every time we speak for everyone MC. There's a million white boys that burned your last LP. Better wax than wood crosses, best we cut our losses. Seek refuge in tools from past decades. Display same rage magnified by malignant movements of this day and age. Cause we all only know about the business of strands. Step up now with open arms and your feet on land. Play the issue that will keep you up with hand in hand. Trust me, motherfuckers, I can see shorthand. Cause we all only know about the business of strands. Step up now with open arms and your feet is my man. Reminiscing that will keep you up with hand in hand. Trust me, motherfuckers, I can see shorthand. I keep my fam close. Go for throat when you approach, fuck hope. Live it in the frayed noose rope. Both scholars in attempt to fulfill prophecies. Those sorries won't amend for ancestral atrocities. Watching me, won't believe those deep-rooted fears. Out the corner of my eye, seen your image come clear. Revered traits, betrayed by a frail chest plate. A timid tongue speaks words, force-fed from wooden spoon. Demented dialogue consumes. Took five steps back to retune. Knowing full well what darker days loom. Learn to read horizons in hopes to watch our final sunrise and sunsets on mankind. Entertained by vain aspect of my kind. Poorly educated in corrupt paradigm. Point the situation since we all just done death and blind. Cause we all only know about the business of strands. Step up now with open arms and your feet is on land. Reminiscing that will keep you up with hand in hand. Trust me, motherfuckers, I can see shorthand. Cause we all only know about the business of strands. Step up now with open arms and your feet is on land. Si è sentito quello che abbiamo detto prima? Sto tastino che non ci ricordiamo spesso, avevamo fatto i nostri complimenti a Dalek. Ecco, così sembra che vada un po' meglio. Anche il microfono che frusciava. Dicevamo, abbiamo fatto i nostri complimenti a Dalek, spero che li abbiate sentiti. Anche le nostre scuse, perché appunto le nostre manipolazioni hanno approfittato, dicevamo poc'anzi, di Future Salon London, di Gold. Insomma, hanno un po' straziato costoro e le loro fatiche. Questa sera, diciamo, è per quanto riguarda il complotto Trip Virus, è stato, sarà insomma, in ragione di T.I. Segal e White Fans, appunto avevamo detto poc'anzi, Dalek. Wow. poi e poi Transsessional dal loro disco Stomach for the Sun. Questo invece era King Cruel, Stone Again. Quindi niente, entriamo nel mondo dei complotti. 43 minuti e tot secondi di complotto Trip Virus. Buon ascolto. Radio Andarossa, 25 o'clock. Sostenete la radio. Radio abbonatevi.